Le faccio un'ultima domanda, Vittorio Foa. Di tutti questi anni di passione politica e di passione in generale per le cose della vita, di quale Italia è stato testimone? Io ho visto molte cose. L'aver partecipato alla lotta operaia in una serie di situazioni profondamente diversificate. Io ero entrato nel sindacato quando c'erano ancora il vecchio sindacato post-fascista, ma poco interessante. Poi abbiamo vissuto il periodo dell'enorme sviluppo industriale, poi adesso tutta la situazione sembra cambiata, ma voglio dire, io ho visto nelle lotte operaie un elemento di sviluppo, di impegno, di partecipazione al quale ho creduto e continuo a credere. Quella è stata una cosa. Un'altra cosa era la libertà religiosa, la libertà individuale difesa come valore che deve superare tutti gli altri. La libertà personale, nella religione, nelle idee, che nessuno deve imporre le proprie idee agli altri. Questa difesa intransigente della libertà mi è rimasta fin da quando ero ragazzo e mi è rimasta ancora adesso.